atto primo della Mandragola di Niccolò Machiavelli. Questa è una registrazione di LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito librivox.org. Niccolò Machiavelli, Mandragola, commedia di Callimaco e di Lucrezia. Personaggi e interpreti. Indicazione di scena letto da Claudia Graziano. Prima ninfa, letto da Francesca Roma. Seconda ninfa, letto da Emanuela. Primo pastore, letto da Pierre. Secondo pastore, letto da Casbec. Prologo, letto da Ciaguo. Callimaco, letto da Graffiacani. Siro, letto da Francesco Carzedda. Messer Nicia, letto da Di Lorenzo. Ligurio, letto da Pierre. Sostrata, letto da Raffaella. Frate Timoteo, letto da Renzo Clerico. Una donna, letto da Emanuela. Lucrezia, letto da Marzia Marianera. Canzone da dirsi innanzi alla commedia, cantata da ninfe e pastori insieme. Perché la vita è breve e molte son le pene che vivendo e stentando ognun sostiene. Dietro alle nostre voglie andiam passando e consumando gli anni. Che chi il piacer si toglie per viver con angosce e con affanni non conosce gli inganni del mondo, o da quai mali e da che strani casi oppressi quasi sian tutti mortali. Per fuggir questa noia, eletta solitaria vita abbiamo, e sempre in festa e in gioia, giovin leggiadre e liete ninfe stiamo. Or qui venuti siamo con la nostra armonia, sol per onorar questa sì lieta festa e dolce compagnia. Ancor c'è qui condutti il nome di colui che vi governa, in cui si veggon tutti i beni accolti in la sembianza eterna. Per tal grazia superna, per sì felice stato, potete lieti stare, godere e ringraziar chi ve lo ha dato. Prologo. Iddio vi salvi, benigni uditori! Quando par che dependa questa benignità da io esser grato, se voi seguite di non far romori, noi vogliam che s'intenda un nuovo caso in questa terra nato. Vedete l'apparato, qualor vi si dimostra. Questa è Firenze vostra. Un'altra volta sarà Roma o Pisa. Cosa da smascellarsi per le risa. Quell'uscio che mi è qui in sulla man ritta, la casa è d'un dottore che imparò in sul Boezio leggi assai. Quella via, che colà in quel canto fitta, è la via dell'amore, dove chi casca non si rizza mai. Conoscer poi potrai, all'abito d'un frate, quel priore o abate, abiti il tempio ch'all'incontro è posto, se di qui non ti parti troppo tosto. Un giovane, Callimaco Guadagni, venuto or da Parigi, abita là in quella sinistra porta. Costui fra tutti gli altri buon compagni, ai segni ed ai vestigi, l'onor di gentilezza e pregio porta. Una giovane accorta fu da lui molto amata, e per questo ingannata fu come intenderete, ed io vorrei che voi fossi ingannate come lei. La favola Mandragola si chiama. La cagion voi vedrete nel recitarla come io m'indovino. Non è il componitor di molta fama. Pur se voi non ridete, egli è contento di pagarvi il vino. Un uomante meschino, un dottor poco astuto, un frate malvissuto, un parassito di malizia il cucco, fin questo giorno il vostro badalucco. E se questa materia non è degna, per esser pur leggeri, d'un uomo che voglia parer saggio e grave, scusatelo con questo, che si ingegna con questi van pensieri fare il suo triste tempo più suave, perché altrove non ave dove voltare il viso che gli è stato interciso, mostrare con altre imprese altra virtue, non sendo premio alle fatiche sue. E il premio che si spera è che ciascuno si sta da canto e ghigna, dicendo mal di ciò che vede o sente. Di qui dipende, senza dubbio alcuno, che per tutto traligna dall'antica virtù il secol presente, impero che la gente, vedendo cognun biasma, non sa fatica e spasma, per far, con mille suoi disagi, un'opra che il vento guasti o la nebbia ricuopra. Pur se credesse alcun, dicendo male, tenerlo pe capelli e sbigottirlo o ritirarlo in parte, io lo ammonisco e dico a questo tale che sa dir male anch'egli, e come questa fu la sua prima arte. E come in ogni parte del mondo ove il si suona, non si stima persona, ancor che faccia il sergeri a colui che può portar miglior mantel di lui. Ma lasciam pur dir male a chiunque vuole. Torniamo al caso nostro, a ciò che non trapassi troppo l'ora. Far conto non si dè delle parole, né stimar qualche mostro che non sa forse se si è vivo ancora. Callimaco esce fuora, e Siro con sé qua, suo famiglio, e dirà l'ordine di tutto. Stia ciascuno attento, né per ora aspettate altro argomento. La scena è in Firenze. Atto primo, scena prima. Callimaco e Siro, interlocutori. Siro, non ti partire, ti voglio un poco. Eccomi. Io credo che tu ti maravigliassi della mia subita partita da Parigi. Ed ora ti maravigli, essendo io stato qui già un mese senza fare alcuna cosa. Voi dite il vero. Se io non ti ho detto infino a qui quello che io ti dirò, non è stato per non mi fidare di te, ma per giudicare le cose che l'uomo vuole non si sappino, sia bene non le dire se non forzato. Pertanto, pensando io avere bisogno dell'opera tua, ti voglio dire il tutto. Io vi son servitore, e servi non debbono mai domandare padroni d'alcuna cosa, né cercare alcuno loro fatto, ma quando per loro medesimi le dicono, debbono servirgli con fede. E così ho fatto, e son per fare io. Già lo so. Io credo tu mi abbi sentito dire mille volte, ma non importa che tu lo intenda mille una, come io avevo 10 anni, quando dai miei tutori, essendo mio padre e mia madre morti, io fui mandato a Parigi, dove io sono stato 20 anni, perché in capo di 10 cominciorno, per la passata del re Carlo, le guerre in Italia, le quali ruinorno quella provincia, ti liberai di vivermi a Parigi e non mi ripatriare mai, giudicando potere in quel luogo vivere più sicuro che qui. Egli è così. E commesso di qua che fussino venduti tutti e mia beni, fuora che la casa, mi ridussi a vivere quivi, dove son stato 10 altri anni, con una felicità grandissima. Io lo so. Avendo compartito il tempo parte agli studi, parte a piacere, parte alle faccende, e in modo mi travagliavo in ciascuna di queste cose, che l'una non mi impediva la via dell'altra. E per questo, come tu sai, vivevo quietissimamente, giovando a ciascuno ed ingegnandomi di non offendere persona, tal che mi pareva di essere grato a borghesi, a gentiluomini, al forestiero, al terrazzano, al povero, al ricco. Egli è la verità. Ma parendo la fortuna che io avessi troppo bel tempo, fece che capitò a Parigi un Camillo Calfucci. Io comincio a indovinarmi del male vostro. Costui, come gli altri fiorentini, era spesso convitato da me, e nel ragionare insieme accadde un giorno che noi venimmo in disputa dove erano più belle donne, o in Italia o in Francia. E perché io non potevo ragionare delle italiane, essendo sì piccolo quando mi partii, alcun altro fiorentino che era presente prese la parte francese e Camillo la italiana. E dopo molte ragioni assegnate da ogni parte, disse Camillo, quasi che irrato, che se tutte le donne italiane fussino mostri, che una sua parente era per riavere l'onore loro. Io sono or chiaro di quello che voi volete dire. E nominò Madonna Lucrezia, moglie di Messer Nicia Calfucci, alla quale dette tante laudi e di bellezze di costumi che fece restare stupidi qualunque di noi. E in me destò tanto desiderio di vederla, che io ho lasciato ogni altra deliberazione, né pensando più alle guerre o alla pace di Italia, mi messi a venire qui, dove arrivato ho trovato la fama di Madonna Lucrezia, essere minore assai che la verità, il che occorre rarissime volte, e sommi acceso in tanto desiderio d'essere seco che io non trovo loco. Se voi me ne avessi parlato a Parigi, io saprei che consigliarvi, ma ora non so io che mi vi dire. Io non ti ho detto questo per voler tuo consigli, ma per sfogarmi in parte, perché tu prepari l'animo ad aiutarmi dove il bisogno lo ricerchi. A cotesto sono io paratissimo, ma che speranza ci avete voi? Ahimè, nessuna o poche. E dicoti, in prima mi fa guerra la natura di lei, che è onestissima e al tutto aliena dalle cose d'amore. Avere il marito ricchissimo e che al tutto si lascia governare da lei, e se non è giovane non è al tutto vecchio, come pare. Non avere parenti o vicini con chi ella convenga ad alcuna veglia o festa o ad alcuno altro piacere di che si sogliono adirettare le giovani. Delle persone meccaniche non gliene capita a casa nessuna, non ha fante né famiglio che non tremi di lei, in modo che non ci è luogo di alcuna corruzione. Che pensate adunque potere fare? E non è mai alcuna cosa sì desperata che non vi sia qualche via da poterne sperare. E benché la fussi debole e vana, e la voglia e il desiderio che l'uomo ha di condurre la cosa, non la fa parere così. Infine, e che vi fa sperare? Due cose. L'una, la semplicità di Messer Nicia, che benché sia dottore, egli è il più semplice e il più sciocco uomo di Firenze. L'altra, la voglia che lui e lei hanno di avere figliuoli, che essendo stata 6 anni a marito e non avendo ancor fatti, ne hanno, essendo ricchissimi, un desiderio che muoiono. Una terza ci è, che la sua madre è stata buona compagna, ma l'è ricca tale che io non so come governarmene. Avete voi per questo tentato per ancora cosa alcuna? Sì, ma piccola cosa. Come? Tu conosci Ligurio, che viene continuamente a mangiar meco. Costui fu già sensale di matrimoni, di poi si è dato a mendicare cene e desinari. E perché egli è piacevole uomo, Messer Nicia tien con lui una stretta dimestichezza. Ligurio l'uccella, e benché noi meni a mangiare seco, li presta alle volte danari. Io me lo son fatto amico, e gli ho comunicato il mio amore. Lui mi ha promesso d'aiutarmi con le mani e coi piedi. Guardate che non vi inganni. Questi pappatori non sogliono avere molta fede. Egli è il vero. Non di meno, quando una cosa fa per uno, sia a credere quanto tu gliene comunichi, che ti serva con fede. Io gli ho promesso, quando riesca, donargli buona somma di danari. Quando non riesca, ne spicca un desinare e una cena, che ad ogni modo non mangerei solo. Che egli promesso infino a qui di fare? Ha promesso di persuadere a Messere Nicia che vada con la sua donna al bagno in questo maggio. Che a voi cotesto? Che a me? Potrebbe quel luogo farla diventare d'un'altra natura, perché in simili lati non si fa se non festeggiare. E io me ne andrei là e vi condurrei di tutte quelle ragioni piaceri che io potessi, ne lascerei in rieto alcuna parte di magnificenza. Faremi familiare suo e del marito. Che so io? Di cosa nasce cosa, il tempo la governa. E non mi dispiace. Ligurio si partì questa mattina da me e disse che sarebbe con Messer Nicia sopra questa cosa e me ne risponderebbe. Eccoli di qua insieme. Io mi vo tirare da parte per essere a tempo a parlare con Ligurio quando si spicca dal dottore. Tu intanto ne vai in casa le tue faccende e se io vorrò che facci cosa alcuna, io te il dirò. Io vo. Atto primo, scena seconda. Messer Nicia, Ligurio. Io credo che i tuoi consigli siano buoni, e parlane ieri sera con la donna. Disse che mi risponderebbe oggi, ma a dirti il vero, io non ci vo di buone gambe. Perché? Perché io mi spicco malvolentieri da bomba, di poi a avere a travasare moglie, fante, masserizie, ella non mi quadra. Oltre di questo, io parlai ieri sera a parecchi medici. L'uno dice che io vada a San Filippo, l'altro alla Porretta, l'altro alla Villa, e mi parvono parecchi uccellacci. E a dirti il vero, questi dottori di medicina non sanno quello che si pescano. E vi debbe dare briga quel che voi dicesti prima, perché voi non siete uso a perdere la cupola di veduta. Tu, Harry, quando io era più giovane, io sono stato molto randagio, e non si fece mai la fiera a Prato che io non vi andassi. E non ci è Castel Veruno all'intorno dove io non sia stato. E ti vuol dire più in là. Io sono stato a Pisa e a Livorno, o va. Voi dovete avere veduto la carrucola di Pisa. Tu vuol dire la verrucola? Ah sì, la verrucola. A Livorno, vedesti voi il mare? Ben sai che io il vidi. Quanto è egli maggiore che Arno? Che Arno? Egli è per 4 volte, per più di 6, per più di 7 mi farei dire, e non si vede se non acqua, acqua, acqua. Io mi meraviglio adunque, avendo voi pisciato in tanta neve, che voi facciate tanta difficoltà d'andare al bagno. Tu hai la bocca piena di latte, e ti pare a te una favola avere a sgominare tutta la casa. Pure io ho tanta voglia d'aver figliuoli che io son per fare ogni cosa. Ma parlane un poco tu con questi maestri. Vedi dove mi consigliassino che io andassi. E io sarò intanto con la donna e ritroverò Renci. Voi dite bene. Atto primo, scena terza. Ligurio, Callimaco. Io non credo che sia nel mondo il più sciocco uomo di costui, e quanto la fortuna lo ha favorito. Lui ricco, lui bella donna, savia, costumata ed atta a governare un regno. E parmi che rare volte si verifichi quel proverbio nei matrimonii che dice: Dio fa gli uomini e si appaiano, perché spesso si vede uno uomo ben qualificato sortire una bestia e per avverso una prudente donna avere un pazzo. Ma della pazzia di costui se ne cava questo bene, che Callimaco ha che sperare. Ma eccolo! Che vai tu appostando, Callimaco? Io ti aveva veduto col dottore e aspettava che tu ti spiccassi da lui per intendere quello avevi fatto. Egli è un uomo della qualità che tu sai, di poca prudenza, di meno animo, e partesi malvolentieri da Firenze. Pure io ce l'ho riscaldato e mi ha detto infine che farà ogni cosa, e credo che, quando e ci piaccia questo partito, che noi ve lo condurremo. Ma io non so se noi ci faremo il bisogno nostro. Perché? Che so io? Tu sai che a questi bagni va d'ogni qualità gente, e potrebbe venirvi uomo a chi Madonna Lucrezia piacesse come a te, che fossi ricco più di te, che avessi più grazia di te, in modo che si porta pericolo di non durare questa fatica per altri, e che intervenga che la copia dei concorrenti la facciano più dura, o che, dimesticandosi, la si volge ad un altro e non a te. Io conosco che tu dia il vero, ma come ho a fare? Che partito ho a pigliare? Dove mi ho a volgere? A me bisogna tentare qualcosa, sia grande, sia pericolosa, sia dannosa, sia infame. Meglio è morire che vivere così. Se io potessi dormire la notte, se io potessi mangiare, se io potessi conversare, se io potessi pigliare piacere di cosa veruna, io sarei più paziente ad aspettare il tempo. Ma qui non c'è rimedio. E se io non son tenuto in speranza da qualche partito, io mi morrò in ogni modo, e veggendo di avere a morire, non sono per temere cosa alcuna, ma per pigliare qualche partito bestiale, crudo, nefando. Non dir così. Raffrena cotesto impeto dell'animo. Tu vedi bene che per raffrenarlo io mi pasco di simili pensieri. E però è necessario o che noi seguitiamo di mandare costui al bagno, o che noi entriamo per qualche altra via, che mi pasca d'una speranza, se non vera, falsa almeno, per la quale io mi nutrisca un pensiero che mitighi in parte tanti miei affanni. Tu hai ragione, e io son per farlo. Io lo credo, ancora che io sappia che pari tuoi vivono d'uccellare gli uomini. Non dimanco, io non ti credo essere in quel numero, perché quando tu il facessi ed io me ne avvedessi, cercherei di valermene e perderesti ora l'uso della casa mia e la speranza di avere quello che per lo avvenire t'ho promesso. Non dubitare della fede mia, che quando e non ci fussi l'utile ch'io sento e che io spero, ci è che il tuo sangue si affà col mio e desidero che tu adempia questo tuo desiderio presso a quanto tu. Ma lasciamo ire questo. E il dottore mi ha commesso che io trovi un medico e intenda a quale bagno sia bene andare. Io voglio che tu faccia a mio modo, e questo è che tu dica di avere studiato in medicina e abbi fatto a Parigi qualche esperienza. Lui è per crederlo facilmente, per la semplicità sua, e per essere tu letterato e potergli dire qualche cosa in grammatica. A che ci ha a servir cotesto? Serviracci a mandarlo a qual bagno noi vorremo ed a pigliare qualche altro partito che io ho pensato che sarà più corto, più certo, più riuscibile che il bagno. Che di tu? Dico che se tu arai animo e se tu confiderai in me, io ti do questa cosa fatta innanzi che sia domani questa otta. E quando e fussi uomo che non è, da ricercare se tu sei o non sei medico, la brevità del tempo, la cosa in sé farà che non ne ragionerà, o che non sarà a tempo a guastarci il disegno, quando bene e ne ragionassi. Tu mi risusciti. Questa è troppa gran promessa e pascimi di troppa grande speranza. Come farai? Tu il saperrai quando e fia tempo. Per ora non occorre che io te lo dica, perché il tempo ci mancherà a fare nonché a dire. Tu vanne in casa e quivi mi aspetta, e io anderò a trovare il dottore, e se io lo conduco a te andrai seguitando il mio parlare e accomodandoti a quello. Così farò, ancora che tu mi riempia d'una speranza che io temo non se ne vada in fumo. Fine dell'atto primo.